perfetto giorno di Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Chissà quanti di voi in questo momento si stanno già strafogando, chissà quanti di voi stanno in questo momento pensando a quanto mangeranno stasera, giornata di vigilia, a quanto mangeranno domani a pranzo. Ebbene, oggi in questa puntata di Effetto Giorno, che abbiamo deciso che è un po' speciale, un po' particolare, un po' come tutte le puntate di queste settimane, e però oggi la dedichiamo ad un argomento specifico, ci occupiamo esattamente di cibo, ma di un cibo specifico, di un cibo che è sempre presente nelle nostre tavole, che ci serve a condire, ci serve a cucinare, insomma parliamo dell'olio. Perché lo sapete, lo avrete letto da qualche parte, quest'anno è stato un'annata nera, lo sanno bene anche i nostri ascoltatori che magari hanno un pezzo di terra con un uliveto, i tanti imprenditori che hanno ulivi all'ascolto. È stato un anno terribile perché ci sono state delle condizioni climatiche molto pesanti, condizioni climatiche che hanno favorito la nascita, la crescita di un parassita che anche normalmente c'è, che si chiama la mosca dell'olio, e quindi il raccolto è stato decisamente pessimo. Considerate che secondo l'UNAPROL, che è l'Unione dei produttori di olio, per quest'anno agli italiani toccheranno solamente 3 bottiglie di extravergine italiano a testa. Questo per darvi solamente la misura. Bisogna dunque fare molta attenzione quest'anno a che cosa si compra, guardare bene le etichette e tante altre questioni. Di questo parliamo esattamente oggi, quasi per tutta la puntata, e poi chiuderemo con il nostro Dario Ricci, la sua pillola quotidiana di sport. Saluto innanzitutto Davide Granieri, che è proprio presidente di UNAPROL, oltre ad essere un produttore. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Una prima stima iniziale indicava un calo della produzione intorno al 35% per quest'anno. In realtà mi sembra di capire che le cose sono molto più gravi. Sì, assolutamente. Rispetto alle stime, quindi in partenza, nella campagna olivicola di quest'anno eravamo stati molto ottimisti. In realtà, strada facendo, ci siamo resi conto che la produzione non sarebbe stata così, e adesso stiamo raccogliendo gli ultimi dati. Già settimana prossima potremmo dare come sistema UNAPROL dei consuntivi a livello nazionale, che sono molto molto peggiorativi. Parliamo di un decremento produttivo che viaggia dal 70 all'80%. Dal 70 all'80% è veramente tanto, vuol dire che la produzione è il 20% di quella dell'anno scorso. Eravamo sulle 465.000 tonnellate, se non erro, mi conferma la cifra, Granieri, più o meno? Sì, no, è giustissima, la cifra stava intorno effettivamente alle 500.000 tonnellate più o meno. Quest'anno adesso stiamo aspettando gli ultimi dati, sì. Noi crediamo che il dato vero possa viaggiare da 150.000 a 180.000 tonnellate, non di più, nella maniera più assoluta. Una situazione che naturalmente comporta un aumento dei prezzi per tutti noi che l'olio lo usiamo, problemi evidentemente per i produttori. A tutto questo si somma che la situazione climatica non è stata buona non solo da noi, ma anche in un altro grande produttore di olio di qualità, che è la Spagna. Naturalmente a tutto questo è connesso il rischio che in tavola ci mettiamo della roba non proprio eccellente. Stefano Masini, responsabile consumi di Coldiretti, e fa parte dell'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Abbiamo già visto che inizia a circolare qualche truffa, se ne sta scoprendo progressivamente qualcuna, altre probabilmente se ne scopriranno. Quest'anno il rischio è un po' più consistente, secondo lei? Sì, decisamente. Si riduce la quantità e la qualità dell'olio disponibile, e per ragioni di guadagno aumenta il numero di frodi e attività di contraffazione. Varie operazioni messe in campo nelle ultime settimane hanno rivelato falsi giri di fatturazione, messa in commercio di oli con diciture ingannevoli per i consumatori, e soprattutto ciò che è un fatto originale nell'organizzazione delle attività criminali è proprio il transito di olive con diversa provenienza e qualità organolettica che vengono fatti oggetto di furti su strada, che è una proprio clamorosa novità rispetto alle attività messe in campo. È una dimostrazione, di quanto vale effettivamente quest'anno. Tornerei da Granieri per capire questo. Allora, noi abbiamo le difficoltà che abbiamo. La Spagna ha avuto un netto calo della produzione, anche se l'estensione di coltivazione che ha la Spagna medesima è molto più ampia, anche il sistema di produzione è diverso. Da dove le pigliamo le olive? Da dove lo pigliamo l'olio? Bella domanda. Effettivamente è chiaro che quest'anno anche la Spagna, che è un grandissimo produttore, ha avuto un grosso calo produttivo. Per quanto grande, effettivamente la concentrazione e la sistematicità dell'organizzazione olivicola spagnola ha permesso di compensare. Il dato veramente interessante è che non possiamo non essere attenti, perché l'olio o si produce durante la stagione o olivicola o altrimenti non si produce, quindi non c'è un'altra risorsa olivicola. Il fatto è che sono aumentati per l'Italia circa del 50% i volumi delle importazioni e altrettanto con un quantitativo così basso, già non essendo autosufficienti dal punto di vista dell'autoconsumo interno, perché ricordiamoci che l'Italia consuma 600.000 tonnellate di prodotto annuo, qualche problema assolutamente ci sarà. I sequestri dei giorni scorsi hanno effettivamente dimostrato che si sta innescando un meccanismo sicuramente di contraffazione, indubbiamente. Masini, a cosa dobbiamo stare attenti? Che cosa dobbiamo guardare? Il prezzo. Cioè, l'etichetta ci basta o no? Beh, l'etichetta, anche attraverso le nuove previsioni regolamentari che l'Europa ha messo a disposizione, dovrebbe sicuramente costituire una migliore bussola per l'orientamento delle scelte di acquisto. E soprattutto oggi è il tappo antirabocco l'elemento di novità che ci dovrebbe segnalare anche un impegno del confezionatore a mettere a disposizione un prodotto corrispondente alle caratteristiche indicate. Però obiettivamente questo non basta, il prezzo è un indicatore. Se abbiamo detto che oggi si è moltiplicato il prezzo alla produzione, che anche in Puglia quest'anno l'olio è stato ceduto a 7 euro, beh, sarà difficile trovare una bottiglia di olio extravergine italiano a un prezzo inferiore al costo di produzione in campo. Quindi anche una valutazione sulle vendite sotto costo, che spesso nei negozi, nei supermercati o negli autogrill viene presentata come occasione. Sì. Io credo che quest'anno noi avremo molte miscele di olio ottenute dalla rigenerazione di quantitativi disponibili accumulati negli anni precedenti o rese disponibili attraverso la raffinazione chimica di oli di oliva, e quindi extravergini presentati diciamo dopo questi processi di tecnologia alimentare che ne alterano sicuramente le caratteristiche. Quindi il lavoro per le forze dell'ordine sarà notevolmente moltiplicato per trovare queste frodi, e il prezzo sarà uno degli elementi di valutazione per noi consumatori. Un'ultima domanda per Granieri, ed è il lato dei produttori, insomma, che cosa si aspettano, immagino, dal governo o dall'Europa i produttori di olio, perché ripeto, quest'annata è stata veramente brutale e rischia di mettere in crisi anche un sistema economico, evidentemente. Indubbiamente quest'anno i produttori già chiaramente afflitti dal sistema del falso olio italiano, quest'anno avranno dopo il danno anche la beffa, perché in realtà non c'è la forza economica per riniziare il ciclo produttivo. Infatti a gennaio, che di solito è la prima tappa, cioè quella, come dire, delle potature, quindi del riassetto delle aziende, sarà molto difficile. Cioè lei pensa che quest'anno molti chiuderanno proprio? Guardi, se non chiuderanno, hanno grandissime difficoltà economiche, perché il raccolto di quest'anno non compenserà i costi di raccolta. Un gioco di parole, però. No, ma è chiarissimo. È chiarissimo. È chiarissimo. Come dicevo prima, molti olivicoltori, anche se più piccoli e anche marginali, tengono ai loro oliveti come alla propria casa, quindi chi lo farà per la componente di passione, ma in realtà il reddito mancherà, e quindi l'indotto, che è un indotto effettivamente importante, che quest'anno si è scaricato di quella parte produttiva effettiva che serve per come produzione, creerà delle grosse difficoltà. Noi ci stiamo muovendo affinché da una parte si possa trovare una soluzione per la compensazione del reddito, ma dall'altra sì, dobbiamo trovare una soluzione definitiva al monitoraggio fitosanitario, in modo da rendere sicuramente più salubre il sistema, e quindi sì, più accorto il sistema, e dall'altra ancora la certezza del reddito, magari accedendo al fondo di solidarietà nazionale. Questo non possiamo più permetterci, sì, che un anno come questo, che in parte per gli agenti patogeni, in parte per il clima chiaramente non probabilmente favorevole, metta a rischio il reddito di imprese che non contribuiscono soltanto alla bilancia economica del nostro paese, ma in realtà contribuiscono per l'altro 50% alla manutenzione del territorio del nostro paese. Grazie David Granieri, presidente di UnaProl, l'Associazione Italiana Produttori Olivicoli, e Stefano Masini, responsabile consumi di Coldiretti. Buona giornata a tutti e due. Grazie. Buongiorno. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo e continuiamo a parlare di olio, e ne parliamo con chi se ne occupa da un punto di vista legale, per così dire, ossia i nuclei antisofisticazione dei Carabinieri, per capire come si stanno muovendo in questo periodo. Effetto giorno. Fin qui, prima della pausa, stiamo parlando di olio, di quest'anno nero per l'olio. Come avete sentito, le proiezioni di UnaProl parlano di un calo di circa l'80% addirittura della produzione, anche se naturalmente, come avete sentito, localizzata più sui piccoli produttori. Fin qui abbiamo parlato della produzione, del rischio di frodi, adesso vogliamo parlare con chi si occupa di prevenirle, oltre che naturalmente di colpire chi le mette in atto. Allora saluto il capitano Massimo Minicelli, che è del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, il Nucleo Antisofisticazione, il NAS. Capitano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Avete registrato nell'ultimo periodo, e con quest'annata nera dell'olio, che come abbiamo raccontato prima è dovuta a un mix di fattori, da una parte la questione climatica, dall'altra appunto la mosca dell'olio, quindi un parassita che si rafforza particolarmente a causa delle condizioni climatiche, avete registrato già un incremento di frodi? Ancora, è ancora un po' presto per dirlo, perché ovviamente chi è in grado di perpetrare una frode si guarda bene dal farsi scoprire così in tempi così rapidi, ancor più quando poi sa di essere nell'occhio del ciclone. Comunque, a parte queste considerazioni, è ancora un po' presto per dirlo. Comunque possiamo sicuramente dire che a causa dei fattori che lei ha poc'anzi ha messo in evidenza, noi abbiamo e stiamo predisponendo delle strategie per implementare e intensificare adeguatamente tutti i controlli che già, insomma, da numerosi anni a questa parte noi mettiamo in campo proprio per prevenire queste condotte criminose che consistono nel frodare i consumatori. Senta, capitano, ci può spiegare come a questo punto, in condizioni normali e quindi con un rischio incrementato in questa annata così particolare, come avvengono generalmente le frodi sull'olio? Cioè che tipo di tecniche vengono usate di solito? Sì. Dunque, cominciamo col dire che l'olio, come credo sia stato già messo in evidenza, è un alimento importantissimo per la nostra dieta, è un alimento ricchissimo in nutrienti, è un alimento che fa bene anche alla salute, tant'è che da un punto di vista nutrizionale e per legge, nei casi in cui è previsto, è possibile fare menzione addirittura di queste proprietà salutistiche in etichetta. Quindi è un bene estremamente prezioso e come tale si presta a contraffazioni. Vale molto, quindi pensiamo che delle cisterne addirittura che trasportano l'olio vengono a costare moltissimo, dai 100 ai 200 mila euro, quindi hanno un valore elevatissimo. Questo per dire che l'olio, come viene anche soprannominato, cioè l'oro verde, ha un valore elevato sul mercato, quindi come tale si presta storicamente ad essere sofisticato. Certo, la tentazione è forte, come dire, per chi vuole truffare. Perché c'è un notevole guadagno. Dove sta il guadagno e quindi dov'è la frode che maggiormente viene perpetrata? Cioè quella di far passare un olio extravergine di oliva o un olio di oliva vergine, perché sono queste le due categorie merceologiche che trovano un 90%, hanno il 90% del mercato. Nel farle passare, far passare oli di minor pregio come oli di maggior pregio, segnatamente olio extravergine e olio vergine di oliva. Sì. E per fare questo come si procede? Si procede contraffacendo tecnicamente, e questa è la condotta criminosa, cioè di contraffare oli di minor pregio, che possono essere oli di semi, oli di sansa, oli di minore qualità. Cioè, e cosa si fa? Si usano coloranti? Perché normalmente un consumatore un olio extravergine di oliva, no, magari non sempre, però è in grado mediamente di riconoscerlo. Su questo mi spiace contraddirla, perché lei ha toccato proprio il tasto dolente della situazione. Il tasto dolente è proprio il consumatore, ma non per sua colpa. Faccio un inciso: il consumatore per legge è colui il quale si trova rispetto agli operatori del mercato in una posizione di debolezza, quindi questo lo si trova scritto nella legge, nel codice del consumo, quindi non è colpa del consumatore se è svantaggiato sotto il profilo commerciale e della transazione commerciale rispetto al mercato così generalmente inteso, perché purtroppo non può fare diversamente. Sì. Tuttavia bisogna registrare che nonostante questa posizione di debolezza, comunque c'è una disinformazione che non dico impera sovrana nel settore, ma quasi, perché un consumatore poco avveduto non è assolutamente in grado, il consumatore medio, ecco, non parliamo delle categorie poi che fanno la spesa una volta a settimana, per dire, ma il consumatore medio non è in grado di leggere un'etichetta dell'olio, l'etichetta correttamente, l'etichetta dell'olio, quindi figuriamoci se è in grado di percepire la diversità che passa tra un olio vergine di oliva, ad esempio, e un olio extravergine, che è quello che costa di più. Quindi capitano, mi faccia capire una cosa: ad un eventuale truffatore gli basta semplicemente mettere in bottiglia un olio diverso da quello che c'è dichiarato in etichetta, e così io compro un olio di oliva che lo pago 3 euro al litro e poi faccio fare da una stamperia compiacente un'etichetta olio extravergine di oliva, ad esempio, ammesso che lo voglio etichettare, perché poi vedremo se ci sarà lo spazio, l'occasione di dirlo, che non sempre vengono etichettati, ma comunque, ammesso che io lo voglio etichettare, faccio fare delle etichette di olio contraffatte, false, in cui lo dichiaro invece olio extravergine, ed ecco là che io già vado a guadagnare, lo rivendo sul mercato a 6 euro, ecco già che quindi vado a guadagnare un 3 euro, poi leviamo i costi per le etichette, sono 2 euro e rotti, insomma. Capitano, che possibilità ci sono dicono che questo tipo di oli nei meccanismi, dico sulla base della vostra esperienza, no, di quello che avete fatto negli ultimi anni, che questi oli arrivino fino alla grande distribuzione, perché questo immagino è quello che interessa ai nostri ascoltatori. Allora, ecco, questo è un dato importante. Per quanto riguarda le contraffazioni di cui stiamo parlando, più diciamo classiche, ecco, queste si registrano in misura notevolmente maggiore nei canali, come dire, fuori dalla grande distribuzione. I canali informali, per così dire. Canali informali, quindi vendita porta a porta, il tizio che telefona a casa dicendo abbiamo delle offerte su tutti gli alimenti, fra questi ovviamente menziona anche l'olio, taniche comprate dal contadino, perché magari il contadino ha questa presunzione di genuinità, no? E quindi il consumatore ingenuamente, quello meno avveduto, anche se poi magari è un professionista, però in quanto consumatore è poco avvezzo a fare la spesa e quindi si affida al contadino che magari gli dà più garanzie, proprio invece magari è proprio il contadino che glielo vende non etichettato o come olio del suo, e invece è olio miscelato o olio che magari non proviene da quella zona, ma un olio extravergine che proviene ad esempio dalla Turchia, perché questo è un altro tipo di contraffazione, far passare oli di origine comunitaria come oli italiani. Noi sappiamo, a questo proposito cito che è stata da poco aggiornata una normativa abbastanza dettagliata e puntuale italiana che tende ad apportare la maggiore trasparenza possibile in etichetta sull'olio, molto più che per gli altri alimenti. E quindi, per concludere, capitano, come ci diceva, è difficile che oli contraffatti, proprio per i meccanismi di controllo che ci sono, arrivino alla grande distribuzione. Molto difficile. Io credevo che il consumatore, avevo capito male la domanda, credevo che il consumatore che se ne potesse accorgere. No, che arrivino alla grande distribuzione. Il canale della grande distribuzione è il canale sicuramente più sicuro. Quindi qual è sotto questo profilo un consiglio che sulla base della nostra esperienza è possibile dare? Quello di rivolgersi a marche comunque conosciute, marche che danno una garanzia, grosse aziende che danno una garanzia di serietà per quello che è possibile conoscere attraverso i mezzi di informazione rutinari e di consuetudine. E poi scegliere quelle bottiglie che hanno l'etichetta più trasparente, più corretta e più regolare possibile. E poi immagino, e se ne parlava anche prima, con gli altri ospiti c'è anche una questione di prezzo, nel senso che ovviamente quest'anno un extravergine a 7-8 euro italiano ce lo scordiamo, direi. Io mi sento un po' di come dire, non essere d'accordo su questo. Ok, prego. Si potrebbe trovare quest'anno un olio a questo prezzo, non necessariamente bisogna acquistare oli che costano 12, 13, 14 euro, questi sono oli magari. Quindi quello non è un indice, a noi interessa solo questo, insomma, no, diciamo, non è un indice. Il prezzo è l'ultima, certo. Se io trovo un olio extravergine italiano, quindi di origine italiana, quindi olive italiane molite in Italia e imbottigliate in Italia, questo deve risultare dall'etichetta, a 3 euro, dico, quello non è extravergine, questo lo metto il sigillo io su quello che dico, insomma. Grazie al capitano Massimo Minicelli, che è del Comando Carabinieri per la tutela della salute, il NAS, le auguro una buona giornata. A voi altrettanto, grazie. Chiudiamo questa giornata, questa puntata di Vigilia di Natale raccontandovi una storia dagli Stati Uniti, sempre con il nostro Dario Ricci. Raccontiamo un po' di storie di sport del 2014. Ebbene, oggi ci occupiamo di razzismo nel basket americano e di un passaggio di proprietà di una squadra. I understand